c'è nessuno? Attenzione, sul binario 10 c'è qualcuno? Binario 10 c'è qualcuno? Gianni, cosa c'è? Sono Marco. Gianni, doppio room. Attenzione, sul binario 10, sveglia. Vabbè, non vedo nessuno. Natalina, ci sei? Attenzione, binario 10, Gabbi. Attenzione, binario 10, Gabbi. Ascoltate il doppio room che chiama, Gabbi. Beh, Valerio. Che si sente sotto? Dove? Non sento nessuno io. Ah, boh, ma io ho sollevato il volume adesso perché ero giù col cane. Tutta la sera non si è sentito. Manca l'anima per i mortacci loro. Se ne sia più voglia come prima, io a volte ci sono, a volte no, due chiacchiere, due cose, ma sono già alle 8:10, fra un po' si fa cena, altro che radio, Cazzo, sono uscito a portare i cani, c'è un freddo a cagarsi fuori, e io mi fate voli, infatti, è così, c'è niente da fare, no vabbè, per questi giorni ancora, preparativi per Natale, dai, quindi cosa ci vuoi fare? Va bene, va bene. Sì, già mi vuoi bene. Ci abbiamo 19 oggi, già mi vuoi bene che non mi faccio sentire sino a Natale. Ehi, va lì. Dai, va bene che comunque. Ma io la settimana praticamente dal 23 in poi non ci sono, però poi già sono sempre a casa, non ce n'è problema. Sì, andiamo un po' su montagna a farci qualche giorno, niente di che, giusto per trascorrere il Natale diverso agli altri anni, questo è il primo anno per me, quindi stacchiamo un po' la spina, ma giusto 3-4 giorni, niente di che, a fine anno sono qua perché siamo tutti a casa del mio fratello, capite? Sì, abbiamo fatto così, c'è mia figlia che ha 25-26, sono chiusi, 26-27, cioè 27-28 se li ha presi come ferie, quindi facciamo 4-5 giorni fuori, dai. Niente di che, 31 già sono qua, anche prima, il 30, perché poi il 31 notte siamo tutti in famiglia. Va bene, effettivamente, il primo anno, l'anno scorso mi ricordo, ho lavorato il 25, tutta la mattina, poi pomeriggio reperibile fino a mezzanotte, il 26 ho lavorato tutto il giorno lo stesso, il 31 ho fatto la mattina, la reperibilità fino a mezzanotte, l'1 ho lavorato, quindi dimmi tu dove cacchio dovevo andare, lascia perdere, meglio così, vale, almeno mi godo un po', anche un po' la famiglia, sinceramente parlando, perché non c'ero mai a casa, soprattutto le feste, senza contare le domeniche. No, vale, non me lo più assoluto, ci mancherebbe altro. Non ho mai attaccato la radio, ma manco pensando ci sto, assolutamente. Guarda, io entro la sera così, verso le 7, altre volte più tardi, una mezz'oretta, un'oretta. Un altro giorno qua è tutto spento, non ci sto, io attaccato alla radio. Me ne esco, capito? Se è bella giornata va bene, se sta piovendo me ne esco lo stesso, faccio un giretto in macchina, poi me ne rientro, però poco ci sto qua dentro, vabbè, sono finiti quei tempi, giusto per fare due chiacchiere con qualcuno, se c'è, se non c'è pazienza, adesso ho visto la tua portante, l'elicottero sotto, ho detto questo è Valerio, quindi sono entrato a salutarti, se no mi stavo già spegnendo tutto, figurati. 23, faccio la vigilia, 24, 25, 26, 27, 28 e poi si ritorna a casa. E figurati voi, già sui 9, tranquillo, dai. Ciao, buona cena, buon tutto, ci sentiamo alle prossime, vale? Ok, ciao, passo anch'io in cuore che si ascolto e ci sentiamo, ciao. E già non si stanno spingendo, no, per salutare, ciao. Se c'è uno e saluti, manco per le palle. Ciao Vale, ci sentiamo, dai, ciao ciao. Ciao Claudio, buonanotte, ciao ciao. Mimi, vedi qualcuno che c'è sotto, mi ha salutato. Ciao Marie, buonasera, ben ascoltato. Andiamo a mangiare, che forse è meglio. Buona cena Claudio, grazie di avvocato, allora, ciao ciao. Ciao Mari, grazie per aver salutato, ci sentiamo, ciao ciao, ciao a tutti, quelli che sono ascolto sul 10, bye bye.